signorine molto di solito molto rispettose, molto rispettose e dispettose, perché riescono a mettere insieme le due cose facilmente. E perché? Perché sono delle bambine, sono delle bambine cresciute male, quindi come adulte danno poco affidamento, come bambine mi sembrano molto più efficienti. E la bellezza di questo disegno animato credo che sia proprio nel loro rapporto con la loro infanzia. Io penso più a Mara, perché Magda ha collaborato, però è l'idea di partenza era un lavoro di Mara, no? Di Arcuriel, e che è una riflessione sul mistero, sull'altra parte, su cosa c'è oltre la parete. Insomma, è un tema ovviamente antichissimo, vecchissimo, che hanno analizzato in tanti, e in particolare, se vi ricordate, Alice oltre lo specchio, più che Alice nel Paese delle Meraviglie, insomma l'Alice seconda, che è molto più intellettuale, molto più inquietante che non la prima. Qui invece dello specchio c'è una porta da attraversare, c'è un piccolo mistero da risolvere, e la bambina che cerca di risolverlo, che è attirata chiaramente anche in modo affettivo da quello che sta dentro, che se però se ne va, insomma, lei sente il bisogno di scoprire chi è, perché questi incontri sono troppo fugaci e non si ha il coraggio di mettersi a confronto davvero, e entrando in quest'altro appartamento trova un altro mondo, un mondo abitato, un mondo di mistero, un mondo di alterità. È un confronto che la bambina fa con se stessa, con la sua parte oscura o anche luminosa, ma no? L'altra parte comunque, quella non ancorata alla realtà. Qui gli oggetti possono parlare, le mura possono parlare, c'è sempre un dietro da scoprire, c'è sempre uno sprofondare, che è uno sprofondare nell'inconscio infantile, nel bisogno di non tanto di né di stordirsi né di capire, ma nel bisogno di trovarsi, nel bisogno di capire chi si è. In fondo sprofondare vuol dire pensare che c'è comunque un terreno sul quale alla fine vai a cadere, su cui pianti i tuoi piedi e cominci a camminare. Insomma, è questo il moto che affascina in questo disegno animato. E poi cos'altro dire? Boh, è pieno di riferimenti. C'è una scena in cui c'è una piccola, purtroppo velocissima, una libreria con degli omaggi agli amori di Mara e di Magda, che sono amori reali, persone vere, però sono anche cose letterarie, sono anche cose artistiche, cose dell'immaginario. Basta, io credo che raramente si vedono delle cose, soprattutto per quello che riguarda l'infanzia, anche se oggi c'è una grande editoria che si occupa dell'infanzia, Fausta, insomma, ma c'è anche uno degli aspetti più interessanti della cultura contemporanea, sono due gli aspetti più interessanti e più nuovi. Finalmente l'affermazione del graphic novel, del fumetto come arte maggiore, come incrocio tra testo e immagine straordinario, che finalmente assurge alla dignità che merita in un'epoca che invece sul piano delle arti in generale dà molto poco, in un'epoca vecchia, il cinema è morto, la letteratura sembra cadaverica, il teatro pure, insomma, non c'è l'arte e le gallerie non parliamo neanche, insomma, non è un momento di grande esplosione dell'immaginario. Questa esplosione dell'immaginario c'è nel graphic novel, che è la forma più attuale, più bella, credo, dell'arte contemporanea, la più vitale, la più adeguata al tempo, e c'è nell'illustrazione, nel disegno animato, e c'è anche nell'editoria, nella letteratura per ragazzi. Ovviamente, così come nel fumetto ci sono tante porcherie, così anche nella letteratura per ragazzi c'è un mercato, no? Però non c'è solo quello, per fortuna c'è anche quest'altra parte, che è dare il giusto, come dire, la giusta attenzione all'infanzia, rispettare l'infanzia, rispettare la sua libertà e anche cercare di ritrovare quello che c'è dentro di noi di un'infanzia che è stata soffocata dalla stupidità dell'età adulta, dalla violenza dell'età adulta, dal conformismo dell'età adulta. Insomma, riscoprire l'infanzia credo che sia un gesto assolutamente, riscoprire l'infanzia dentro di noi sia un gesto assolutamente rivoluzionario oggi, proprio politicamente rivoluzionario. Ripartire da lì, ricominciare, vuol dire ricominciare dall'infanzia rispettando l'infanzia. Per questo gli artisti che hanno il dono di riuscire a farci capire questa cosa, per me sono un dono di Dio, sono una cosa meravigliosa e bisogna volerli molto bene e tenerli molto cari. Grazie. Bravo. Al contrario, ad esempio, di questi, quello che vedete qua sopra, questi sono proprio all'interno del film, e questi invece sono delle prove, delle bozze, comunque delle scene che poi alla fine non hanno più fatto parte del film. Invece le opere di legno sono state fatte, pensate, apposta per questo spazio. E poi c'è questa pubblicazione di Orecchio Cervo che viene presentata oggi per la prima volta e comprende la riedizione del libro di Mara di Via Curielotto in un altro formato, così, con un'altra copertina, e il DVD che contiene sia il film che un documentario di 39 minuti che penso che sta andando su questo monitor. Il documentario parla dei nostri 2 anni di lavoro insieme, e poi nel DVD c'è anche una selezione di bozze di scene tagliate e una fotogallery realizzata dallo stesso fotografo che ha per noi acquisito tutte le immagini con una macchina fotografica. Devo parlare anch'io. Sì, questa è la prima volta che questo lavoro esce in qualche modo da Pesaro. Via Curielotto è a Pesaro, noi abbiamo lavorato in Via Curielotto per 2 anni e abbiamo già presentato il lavoro nella nostra città e questa, diciamo, è la prima uscita. E magari così una curiosità che spesso ci rivolgono è quella di capire come abbiamo fatto a lavorare in due questo film, perché veramente, realmente io e Magda ci siamo proprio divise su questo lavoro, divise o unite, si può dire, perché ogni foglio contiene le tracce e i segni di entrambe. Questo, se devo dire cosa è stato per me Via Curielotto il film, forse è proprio questo reale confronto di vita con l'altro, perché se Via Curielotto indagava in qualche modo appunto l'altro da sé o l'altra parte di sé, per me Via Curielotto il film è stato un po' questo il rispetto del segno dell'altro e il desiderio di passare insieme per realizzare un progetto unico. E siamo molto legate anche effettivamente ai contenuti del DVD, quindi non solo il film, anche al documentario, perché dobbiamo ringraziare le persone che appunto adesso non sono presenti, ma sono Carlo Cancellieri, che ci ha seguito con le riprese per tutti i 2 anni, e Federico Tamburini, che la notte alle 11, insomma dopo il lavoro, veniva in casa nostra, allestiva un piccolo set alla buona nel salotto di casa per riprendere più di 4.000 scatti, perché l'animazione è fatta di più di 4.000 disegni. E vedere, insomma, sapere che oggi tutto finalmente confluisce in un progetto finito è wow. Yeah. Basta, adesso voltiamo facile. E quindi ovviamente grazie Giuseppina, Tiziana. voglio stare qua. Basta. Andiamo a vedere il film.